Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non sono particolarmente scaramantico, però giro sempre con il trolley, con un panda, un ciondolino a forma di panda. Sì, ho un oggetto che porto sempre con me, ormai da 25-26 anni, che è l'orologio di mio nonno, e ce l'ho sempre con me. Non al polso, ma in un posto specifico. Quindi lo uso, l'ho sempre avuto, quando andavo a scuola, quando andavo all'università, e lo porto sempre con me, anche nei viaggi. Allora, spieghiamo. Una coccinella che porta fortuna, e poi ci sono dei cicciotti. Ora, non avrei mai pensato di toccare il fondo dello sciocchezzaio della mia ispirazione, ma oggi, devo dire, quando ho visto che era venerdì 17 2017, non ho resistito, non me ne volete, un venerdì. Oggi cerchiamo di essere leggeri. Oggi è una giornata che per qualcuno potrebbe essere una giornata di sfiga, ci sono quelli che la mattina hanno paura di uscire di casa. Me l'ha detto l'impiegata del municipio di Roma, dove sono andato a fare la carta d'identità questa mattina, dicendo oggi è venerdì 17. Dico, vabbè, io sono nato un 17, non c'è niente di strano. Comunque un giorno strano, un giorno come minimo, anche se una bella giornata, semina inquietudine. Nessuno ci crede, naturalmente, figuriamoci se noi cadiamo in così arcaiche discriminazioni come pensare che ci possa essere la buona fortuna o la cattiva fortuna. Ma ho voluto fare un test antropologico, innanzitutto entrando nella mia redazione. Ho chiesto ai colleghi, ma avete un portafortuna? Anche più scettici, anche quelli che naturalmente non ci credono, anche quelli ispirati da un luminoso spirito laico, avevano un portafortuna. Nell'ordine vi dico quelli che ho preso dalle tasche e rubacchiato dalle scrivanie dei miei colleghi. Andrea Viali mi ha dato una conchiglia, lui è un pescatore, legata con un laccetto di cuoio. Vincenzo Miglietta ha un gufetto bellino, un gufetto fucsia, non sa che gliel'ho preso, rimarrà malissimo, ma ho il suo gufetto fucsia e oggi venerdì 17 l'ha lasciato in redazione. Fabrizio Tonti ha un dado che trovò su una spiaggia un giorno, che andava a piedi nudi correndo verso il sole che tramontava, e trovò questo dado, però era esposto dal lato con sé, quindi dice porta fortuna. Se fosse stato esposto da l'uno portava sfiga. E ce l'ho qui davanti a me, ecco il rumore del dadetto, sentite, dadetto di Intonti, buffettino, conchiglina con l'accetto, mica sto scherzando. Poi, Lidia Dell'Oro, badato, una cosa molto intima e personale, è la foto del padre morto. La foto di un bel signore con lo sfondo del mare che guarda verso l'infinito, e in più, siccome non si sa mai, una medaglietta, quelle sigillate della Madonna, o Maria concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi. A voi quante? Una è la Madonna, a voi, si dà del voi. Questa medaglietta, quindi una cosa di culto. Il professor Chiappini anche c'è una medaglia, che però è un'altra Madonna, somiglia, è simile, però c'è un'altra Madonnina e se la porta sempre dietro, è tutta consumata da quanto la tocca ogni giorno. Poi un'altra collega mi ha dato un ricordino brasiliano che sembra una macumba, non so bene cosa sia, c'è una stella ricamata, c'è una coccinella disseccata, c'è una monetina brasiliana. Un altro collega ha detto, io mi porta fortuna, me lo porto sempre addosso, non me lo posso staccare e mettertelo sul tavolo, che anche lì è qualcosa di molto intimo. Io ho un portafortuna, non ce l'ho oggi sotto mano, ve lo dico, è in un altro portafogli che tengo a casa. C'è una, nell'ordine, un quadrifoglio cucito con la macchina da cucire dentro il cellophane che mi cuciva mia nonna, ma roba tipo 40 anni fa, l'ho sempre tenuto, perché i quadrifogli secondo lei portano fortuna. Ho anch'io una cosa di cui un po' mi vergogno, ma me l'hanno data, mi hanno detto che se me ne libero mi porta sfiga, quindi me la tengo. È un pezzetto della tonaca di Padre Pio, anche quello cucito e immagazzinato dentro il cellophane, è una moneta da una lira che non la porterò dietro da almeno 50 anni, non so perché. Beh, voi avete un portafortuna, questa mattina ricompenserò con una gratifica che nemmeno immaginate coloro che oseranno avere l'ardimento di descrivermi il loro portafortuna. 800240024, voglio sapere, perché è una profonda importante indagine antropologica, qual è il portafortuna da cui non vi separate mai, anche se poi magari non ci credete. A tra poco. Melog, Cronache meridiane. Parlo di propiziatori, ma propiziatori perché? Per una semplice ragione. Sono fatti a mano da me, intanto sono pezzi unici. Come vedete qui abbiamo un ciondolo che io scelgo di materiale privo di nickel, quindi anallergico, eccetera, che ha questa concentricità del mandala, lo ricorda questa texture, la ricorda, però poi in realtà mandala simmetrico perché, come vedete, si tratta di una raffigurazione che non è ferma, si espande, quindi è come un dipinto, come guardare un quadro, però è un mandala perché? Perché in questo caso è una preghiera. Mi stanno già arrivando le prime segnalazioni dei portafortuna. Questo è un tema che oggi ci sta appassionando molto, è stato già trattato, come avete sentito, dalle colleghe di Cuore Denari con uno psicologo che ha spiegato cosa c'è alla radice questa superstizione. Noi abbiamo molto meno fondamento scientifico, noi pensiamo, ci teniamo in tasca un oggetto che comunque in qualche maniera per noi ha un valore, evidentemente affondiamo le radici nel nostro profondo retaggio di superstizione. Per quanto noi ce ne vogliamo liberare, quando guardiamo una data del calendario che comunque per luogo comune, per condizionamento, per nostro ancestrale ricordo familiare, qualcosa che ci ricorda che potrebbe accaderci comunque un evento infausto, preferiamo toccare, mettere le mani, rassicurarci con il nostro portafortuna. Io questa mattina, circondato da gufetti in ceramica, oggettini voodoo, foto di babbo morto, madonne di tutti i tipi, dadini, mi dispiace soltanto non avere sotto mano il quadrifoglio di mia nonna. Che mi succederà oggi? Giovanni, buongiorno. Sì, Nicoletti, io non so se devo credere al portafortuna, io se no, diamo per scontato che non ci crede nessuno, però ce l'abbiamo tutto. No, anche perché dico, io porto sempre con me Padre Pio, ma di venerdì 17, primo verbale a finanza, venerdì 17. No, Padre Pio cosa? Perché è un pezzo di tonaca, lei cosa ha di Padre Pio? No, io di Padre Pio ho la foto con dentro il pezzettino di tonaca. È come anche quella lì che c'ho anch'io. Ma scusi, ecco. C'era una tonaca Padre Pio che è un lenzuolo a 15 piazze, perché io ho almeno 20 amici col pezzetto di tonaca. È quello lì, dentro la plastica c'è un pezzettino marrone. Sì, è un business. Ah, un business. No, a me me l'hanno regalato. Sì. Poi mi hanno detto che se lo perdevo mi avrebbe portato una sfiga mortale, quindi non me ne separo mai. Però vedo, lo porta anche lei in tasca. Sì, lo porto perché io sono devoto a Padre Pio tutto lì. Però la devozione non può sconfinare nella superstizione. Ecco. Però, anche perché le dico, 10 minuti fa mi chiama un mio amico, venerdì 17 è morto un mio più caro amico. 10 minuti fa. Poverino. So. Ecco. Ma tanto se non succedeva oggi, succedeva un altro giorno. Sì, ma è sempre di venerdì 17, è lì il problema. Ma io ci sono nato, che vuole? La finanza venerdì 17. La finanza è venuta venerdì 17? Sì, venerdì 17. E quel giorno lì si preparano, mettono tutte le forze in campo. È il giorno migliore per... certo, quello che è sfiga per gli altri, per loro è fortuna. Ecco. Per quello vanno venerdì 17, cioè fanno il bottino ricco. Ho capito. Certo, bene. Venerdì 17, piatto ricco, mi ci ficco. Va bene, Giovanni, stringa forte a sé la tonaca di Padre Pio, vedrà che arriverà presto la mezzanotte, passeremo al sabato 18 e saremo tutti più contenti. Massimo, cosa porta lei in tasca? Ma io ho un dollaro che ho preso di mancia tanti anni fa. Quelli d'argento di una volta? No, proprio un dollaro di carta. Un dollaraccio di carta. Lo porta in tasca e lo fa, fa un bel rotolino ogni tanto. No, che no. Ride, che c'è da ridere? No, niente. Farsi portare per fortuna. No, lo tengo nel portafoglio da 30 anni ormai. 30 anni che c'ha lo stesso dollaro? Sì, beh, una volta potrebbe essere utile, metta caso che lei si trova per sua sventura negli Stati Uniti, la saccheggiano, la rapinano, le portano via tutti i soldi, le portano via le scarpe, la bastonano, la picchiano, ha sempre un dollaro nascosto in tasca, si prende un taxi, si fa portare alla prima stazione di polizia. Non so neanche se sarà ancora in corso di validità. No, i dollari sono eterni, durano per sempre. Vabbè, il dollaro è capito. Andiamo, Piero, lei cosa porta? Buongiorno a tutti e grazie. Allora io di che grazie? Grazie a voi. Ho da poco un portafortuna da circa un anno e mezzo, da quando ho perso mio padre. Anche lei c'ha, come leader dell'oro il babbo morto. Allora sì, guardi, io trovo che sia una cosa che accomuna un po' tutti, Padre Pio, nel senso che ecco, ma tutti, per caso, me l'hanno dato, mi hanno detto se lo perdi peggio per te, solo per quello, se no. Sì. Sì, e quindi ecco, lui aveva questa croce, un tau, credo si chiami tau, no? Quella croce di legno del... Quella c'era, non era San Francesco quella, scusi. Anche Padre Pio. Ah sì, anche Padre Pio. Sì, è lui praticamente. Sicuro, perché... Adesso cerchiamo, facciamo una ricerca. Quella cosa c'ha, la croce di Padre Pio o il pezzo di tonaca? No, io ho la croce, adesso la indosso io veramente volentieri, ma la cosa che... La tieni sempre portato... addosso? Assolutamente sì. Ma di cosa è fatta? In quale materia? È di legno, legno a questo punto consumatissimo, perché mio padre l'aveva portata al collo per 10 anni. Ah, se l'è passata di padre in figlio? Io me la sono... la indosso molto volentieri, ma la cosa assurda è stata questa, che il giorno in cui mio padre è andato via era proprio il 23 settembre, quindi era proprio il giorno che del San, era San Pio praticamente. È stata una casualità. Quindi lei ogni 23 settembre comunque con questa croce al collo si fa qualche pensiero? Sì, beh, queste sono quelle cose che nella vita magari lasciano un segno, no? Ma che è quasi come un monito, come dire, credici in qualche cosa che ogni tanto... Lei ha figli lei, Piero? Sì, io ho 2 figli. E ogni volta che prende la croce in mano scappano via, dice papà, tientela ancora un po' te. No, per dire. No, perché praticamente noi abbiamo... È molto... Il nostro credo è molto libero, quindi non c'è questo... Guardi, io questa mattina mi piace essere leggero, nel senso, non voglio assolutamente mettere insieme quello che è il sentimento religioso, la visione metafisica dell'esistenza, con questi che sono oggetti che sono ai margini, diciamo, del culto religioso. Sono oggetti che uno li tiene, gli dà un valore strano, scaramantico. La croce ha un suo significato per chi nella croce crede come oggetto di fede, come simbolo di fede. In questo caso è la croce tau, fatta in legno d'olivo di solito, le vendono a Assisi, infatti costano tanto al chilo, però va bene, è sua, personale, perché l'ha portata addosso suo padre tanto tempo, la porta addosso lei. È il passaggio della croce di padre in figlio che simbolicamente fa un po' pensare. La croce in sé è quella che protegge, ma anche passare una croce vuol dire lasciare un impegno a una persona. È vero. È un significato molto profondo quello che lei ha dato a questo... a questo ti mollo la croce? Io direi, papà, per favore, tientela te. Comunque va bene. Comunque, ognuno nella sua famiglia ha sacro rispetto delle tradizioni familiari. In bocca al lupo, Giuseppe, buongiorno. Giuseppe, sono io, sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, dottore, come sta? Tiriamo avanti, non me lo dica oggi, guardi, oggi non si fa sta domanda, come sta? Senta, già no, io non lo so perché la faccio, perché fra 2 giorni è il mio compleanno, ma questo non c'entra niente. Oggi so che è l'anniversario della morte di Giordano Bruno, sfuggiva. In tasca, a Campo dei Fiori, tantissimi anni fa, ho preso un fiore da una fioraia e lo conservo perché credo che sia il più bel ricordo di una persona che è morto bruciato. Sì, vabbè, insomma, d'altronde per le proprie idee, uno ai quei tempi fare anche quello, non è che faceva quello. Può anche andarsene lontano dove lo vogliono bruciare, tenersi le idee, tenersi anche la pelle nello stato di conservazione migliore. Comunque sono scelte, mica dico di no. Quindi lei lei ribilancia un pochino, perché adesso abbiamo molti portafortuna impropriamente usati. Padre Pio, quelle cose lì non hanno granché di senso. Per me secondo lei funziona più il fiore di Giordano Bruno del pezzo di tonaca di Padre Pio? Ci mancherebbe. L'ha provato questo. Il fiore come lo conserva innanzitutto? L'ho messo in mezzo ad un libro, adesso non mi ricordo. E c'è il libro sempre in tasca, scusa, il librettino. No, è la Bibbia di Gerusalemme, per poter dare un profumo diverso a questo. Così, da una botta al cerchio e una botta alla botte. No, non faccio il democristiano. Scusa, della Bibbia Giordano Bruno. Sì, ma c'è tutto un percorso, no? L'hanno bruciato, poveraccio, proprio perché... Sì, ma c'è un percorso personale, io ho 70 anni, sono passato dalla sponda di là alla sponda di qua. Adesso è l'altra sponda, lo spieghi bene, perché c'è un ascoltatore accanito. Io sono nato chirichetto, sono nato... Allora, prima stava nell'altra sponda, poi è diventato... Sì, esatto, dopo è chiaro che uno deve cercare di assaporare altri profumi, e quel fiore lì... E da chirichetto che profumi assaporava? Più che altro il fumo delle candele. Vabbè, si intossicava, diciamo, si è rovinato. No, vabbè, insomma, quando si andavano a spegnere si facevano anche degli scherzetti. Si chiama lo scherzo e lo smorzacandela. Va bene, fermiamoci qua. Giuseppe, Margherita, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente, una voce squillante, sennò fra candele, morti, bruciati. Diciamo un po', lei cosa si porta in tasca, la signora in borsetta? Ferro di cavallo, proprio in miniatura. Il mio papà faceva il maniscalco, ferrava i cavalli, e lui ha lavorato durante la guerra all'Accademia Militare di Modena, che ferrava i cavalli dell'esercito e dei cavalli dei cadetti dell'Accademia. Dei carabinieri, esatto. E io da quando ho 15 anni praticamente lui mi aveva fatto un piccolissimo ferro di cavallo con tanto di buchi per i chiodi, così, e lo porto con me nel portafoglio. Lei da piccola giocava con i mini pony e ferrava i mini pony con i ferrini? No, io non li ferravo, però mi divertivo a guardarlo fare questo mestiere. Attorno al muro di casa c'era un'anella dove lui legava il cavallo. Le briglie del cavallo, esatto, e poi ferrava. Ma ogni tanto da piccolo, papà, mi fai mettere qualche chiodo nello zoccolo del cavallo? Lo aiutavo? No, non mi attentavo mica perché erano grandi. Gli danno una zampata molto, in faccia al cavallo? Sono grandi i cavalli. Ma quanto è grande questo ferrino che c'ha lei? Dunque, circa un pollice. Un pollice, cioè, quindi un cavallino piccolissimo. Sì. Ci vorrebbe ferrare un gatto al massimo, ecco. Neanche, sì. Il gatto è piccolo per il gatto. Un gattino proprio piccolo. L'aveva fatto, ma con tutto quello che è un ferro di cavallo, ma piccolino, era molto bravo. In quale occasione della sua vita lei l'ha stretto tra i polpastrelli dicendo speriamo che mi porti fortuna? C'è stato un momento in cui questo ferro le ha risolto, almeno dal punto di vista emotivo, una situazione difficile? Dunque, quando ho dato l'esame di maturità... Ce l'aveva in tasca? Sì, ce l'avevo in tasca e ci giocavo. Lo rigirava tra le dita, poi un'altra occasione. Sì. Un'altra occasione quando dovevo prendere la prima busta paga, mi ricordo che erano 445.000 lire e speravo qualcosa di... Vabbè, le buste paga sono quelle che si stabilisce all'inizio, non è che dipende dalla fortuna. No, perché avevo fatto delle ore straordinarie. Eh beh, ma quelle sono tutte segnate. Cioè non è che è una botta di fortuna quello che c'è nella busta. Proprio la prima busta. E la toccava? Sì, ero andata in esattoria. E poi un'altra occasione? Ma non mi ricordo, anche ieri per esempio l'ho oggi, guardato. Lo faccio oggi che è venerdì 17, allora cioè proprio deve dargli. Ma giusto? Per questo, non mi ha sentito, scusi. Tutta la trasmissione sul fatto da questa mattina che ne parliamo. Nicoletta Carbone, Deborah Rosciani, io. Parliamo tutti per darvi degli strumenti concreti e pratici per affrontare il venerdì 17. Ce l'hai in mano adesso il ferrino? Io a me per il 17 mi ha sempre portato fortuna. Ma lei lo ha portata di mano? Sposata. Il giorno 17. Beh, aspetti a dire che è una fortuna. Faccia passare i primi 30 anni, 40 anni. No, io sono tranquilla. Mi ha sempre portato fortuna il venerdì 17. Senta una cosa, Margherita. Lo ha sotto mano il ferrino? Sì. Me lo fa sentire? Lo batte sul telefono, così sentiamo e vediamo irradiati dalla fortuna del ferrino. Siamo qui, sì, pronti. Ari. Ecco, tieni una battutina, faccia sentire un po'. Così almeno anche noi abbiamo la fortuna del piccolo ferro di cavallo fatto, sì, dal maniscalco dell'Accademia di Mon. Eccolo, sentite. Registrate, lo registri il professor Chiappini, ve lo manderò questo rumore per tutta la trasmissione, vi porterà fortuna. Grazie Margherita. 800 24 00 24, oggi è il giorno in cui potrete fare valorizzare i vostri portafortuna, raccontarli, dargli un'esistenza e farceli ascoltare come ha fatto Margherita col ferrino del cavallino minimo che gli ha regalato suo padre. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Oggi voglio mostrarvi una collanina. La collanina è questa qui. Questo è un piccolo bijou che sta spopolando in Sardegna, si chiama Sukoku ed è una sorta di amuletto, tra virgolette, che dovrebbe proteggere dal malocchio. La leggenda dice che Sukoku, cioè la catenina, o se si vuole si può mettere anche in un bracciolino. Poi ve lo racconterà dopo, andatelo a cercare. Sukoku è il portafortuna che portano in Sardegna. Teresa Trillò, una collana di perle come quella della moglie di Homer Simpson. Manuela Mazza ha un altro cosino voodoo che sto qui, io tengo per le mani. Va molto il voodoo, c'è una sorta di mix fra sacro e profano, vedo. Vi dico qualche portafortuna di quelli che mi hanno scritto via SMS, un pezzettino di sasso, non so preso da dove, una bustina di plastica con dentro un pelo pubico rosso della mia prima fidanzata, sono spacconi, vorrei proprio vedere, un corno napoletano in ceramica, 12 centimetri, rosso, rotto, che uso come portachiavi della Porsche. Vabbè. Poi tutti mi dicono il Padre Pio si usa per essere pregato, non come portafortuna, però io riporto in maniera fedele quello che mi dicono gli ascoltatori. Poi vediamo un po'. Antonio, buongiorno. Antonio, cosa c'ha come portafortuna? Sì, buongiorno signor Nicoletti. Da parte mia, diciamo, l'unico portafortuna che porto al collo è un pezzo di infinito, diciamo, un taglio di meteorite con le figure di Wittmann Stetten, quindi è un pezzo di meteorite originale. Ecco. Con le figure di cosa? Mi spieghi bene. Si chiamano figure di Wittmann Stetten e sono delle figure che si creano nel momento in cui si taglia un meteorite, lo si mette a contatto con determinati acidi e vengono fuori delle figure particolari che denunciano l'originalità del meteorite. E dove si compra questo meteorite con le figure che vengono fuori? Si trovano nelle fiere, per esempio, di minerali. Fiere di paese, li vendono così. E dentro, sì, sono tutte queste venature che uno può interpretarle. Esattamente, se uno è talmente bravo, ma sono assolutamente casuali. Ma cambiano con il cambiare della situazione, non le vede mutare o sono sempre le stesse? Sono sempre quelle. Costante, lei è ancora vivo, quindi può essere fortunato. Esatto. Cambiassero le venature nel suo meteorite, potrebbe cambiare il mondo. Questo è bello, però è un elemento forte, qualcosa che viene da un altro universo, quindi ci piace. 800 24 00 24, stamattina sto facendo un'indagine antropologica profondissima nel mio pubblico per sapere cosa si portano in tasca come portafortuna. Nessuno ci crede, ma come vedete tutti ce l'hanno. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Cosa si porta lei addosso? Allora, io sono nato il 17 agosto. Anche lei, come me? Ah, bene, come complimenti. Te, esatto. E ti seguo dai tempi del Golem. Va bene. Comunque, il mio... Che il Golem, detto fra noi, porta una sfiga che Dio solo lo sa. Io ero pieno, al tempo facevo Golem alla radio, ero pieno di pupazzetti di Golem che mi portava ognuno che andava a Praga. Poi ho capito che il Golem si rivolta sempre contro il suo creatore, quindi questi pupazzetti l'ho sigillati in una cappa di piombo nel più segreto sacello di casa mia. Quindi non lo nomini in vano il Golem. Il mio portafortuna è una palla fatta di stracci alla scuola materna di mio figlio, una stracci colorati tenuti insieme con lo scotch. Ma suo figlio andava a scuola nei begli anni di ladri di biciclette, fanno le palle di stracci alle scuole, è una cosa antica. No, mio figlio a 16 anni probabilmente doveva partecipare alla trasmissione di ieri. Comunque lasciamo stare. Si fa le canne per quello? No. Ieri di quello parlavamo, i figli sedicenni che si accannavano. Erano per i sedicenni. Comunque io lo porto sempre con me e quando... Ma quanto è grande questa palla di stracci? Che è brutta, perché... È una palla come una palla... due volte una palla di tennis, insomma. Ma se la mette in tasca la prendono per un superdotato, scusi, lo fa apposta. Rigonfiamento nella tasca, come fa a portarla? No, la tengo nel computer e quando... Ma come fa? Scusa, che computer ha? Quelli degli anni 50? No, il computer, la borsa del computer. Ah, nella borsa, c'è nella palla dentro. Sempre con me. E quando sono da un cliente e magari mi esce la palla, dico, guarda i miei figli cosa mi hanno lasciato. Oddio, se lei si presenta a un cliente e gli esce la palla... non è che fa una bella impressione, onestamente. Sembra un personaggio di un illustratore francese che non era proprio bello, che c'ha queste mutandone che gli uscia sempre. Vabbè. Il Casotto, mi ricorda il film Il Casotto quando esce la palla. Sì, sì, perfetto, bellissimo. Film di Franco Citti in cui c'è Ninetto Davoli, mi sembra, e Proietti che vogliono provarci con due ragazze. E Paolo Stoppa. Paolo Stoppa è il padre, però si accorge che a Placido, ecco, Placido, Michele Placido, che vuole fare il fidanzatino della figlia, che gli vogliono appioppare che era incinta, c'ha questo costume molto attillato anni 70 che gli usciva fuori un testicolo, gli ha detto sta attento, ti esce una palla. Ecco, comunque anche quello rientra negli amuleti, nei portafortuna, sono quei portafortuna in cui soltanto metà dell'umanità può usufruire, perlomeno in maniera autoctona, che però uno se li porta sempre dietro. Massimiliano l'ha detto, Adriana. Mm-hmm. Salve. Il suo portafortuna. Allora, non è il mio. Racconto una storia, ho avuto una storia con questo portafortuna, perché praticamente era la collanina che pendeva al collo di un mio amante, diciamo, una persona con cui ho avuto una storia di sesso per 6 anni, sì. E lui portava al collo questa catenina legata con dello scotch, era anche piuttosto con lo scotch da guardare, sì, ma una cosa schifosa, scusa. C'erano dei ciuffi di peli o di capelli, io non, in 6 anni, tantissima intimità, erano i feticci. Di tutto, ma non ho mai chiesto. Lui era calvo. Erano i feticci delle altre donne che si portava addosso, come uno scalpo, è chiaro. Non lo so, io ho pensato al babbo morto. Ma... al babbo morto, sì. Anche i peli del babbo morto. Ciuffi dei capelli del babbo morto, lui ogni tanto si cambiava sto scotch, e per cui io vedevo che questo scotch era ma scusi nuovo. non poteva andare da mai chiesto, metterle in un sacchetto, pudore. Farlo fare da un gioielliere in una teca di cristallo. Siccome non me ne ha mai parlato, cioè, questo ciondolino pencolava tra me e lui nei momenti più caldi. Sì, però scusi, lei se l'è... È stato come un menage a trois tra me, lui e il babbo. Signora, non so se lei mi prende in giro, Gesù, però lei, scusi, no, ha coperto, è stata coperta da quest'uomo per 6 anni, non gli ha chiesto sti peli che mi sbattono sulla faccia da chi vengono? Non solo sulla faccia, dappertutto. Sì, claro, voglio entrare nelle combinazioni. Non gliel'ho mai chiesto per una questione di pudore, perché se no me ne avrebbe parlato. Beh, di pudore, quando è lì pelo contro pelo uno lo chiede, però, scusi. No. Beh, mi è rimasto questo dubbio. Chissà che adesso l'ho perso di vista. Lei pensi la prossima signora con cui lui si starà sollazzando, che avrà un'aggiunta del suo colore, della sua tinta in quel sacchetto, e si domanderà. Io non ci avevo mai pensato che fossero delle donne. Infatti era un Don Giovanni. Vabbè, però ho sempre pensato che fosse il papà. Ma guarda, tutti questi Don Giovanni. Mi ha svelato un mondo adesso. Se con lei è durato 6 anni. Il Don Giovanni dura 6 giorni massimo, se proprio una donna gli piace tanto. 6 anni si era innamorato, aveva una storia con lei, quindi era un romanticone. E il suo spirito romantico si concretizzava in questa sorta di scalpo feticcio muliebre che si portava sempre al collo. Era un pidocchioso, perché invece di girarlo con lo scotch per farsi fare un piccolo medaglione da un orefice lo metteva sotto vetro, era anche più bello, però ognuno si accontenta. Beh, Adriana, è stata bella questa cosa. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Il mio portafortuna è un gettone telefonico. Ah, bello, quelli di ottone. Quelli vecchi di ottone, ma un gettone telefonico molto speciale, perché nel 1981 io ero ancora studente di ingegneria e per chiamare casa bisognava andare alla cabina telefonica, inserire ben 1.000 lire nel distributore di gettoni e ricevere in cambio 5 gettoni. Di questi 5, nel 1981 ne è venuto fuori uno stranissimo con la scritta Teti sopra e la data Roma 1945. I primi gettoni del dopoguerra? Sono stati i primissimi gettoni stampati nel dopoguerra e sono stati stampati nell'ottobre del 45. Ma è la stessa dimensione, uguali agli altri, quelli che abbiamo avuto noi nelle mani fino appunto agli anni 80. Assolutamente identici, potrei usarlo tuttora in una cabina che non c'è più. Se ci fossero ancora le cabine. Va bene, questa è una bella storia. Avevamo una signora scomparsa, peccato, era un bel feticcio, adesso la ritroviamo. Dobbiamo lasciare la linea, ecco, ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, c'è una signora che, se la recuperiamo, parlerà di un suo portafortuna che cambierà completamente le carte in tavola a chi in questo momento butta la cipolla nel soffritto pensando che quell'odore terrà insieme il tepore della sua famiglia. Ma tra poco tenete i mariti lontani dalla radio, perché sarà tutto sconvolto il vostro universo familiare. Melog, cronache meridiane. Uno sconvolgente messaggio nella bottiglia. Il professor Chiappini, che aveva registrato il ticchettio del piccolo ferro di cavallo che aveva Margherita e che lei ci ha fatto ascoltare battendolo sul telefono, ci siamo accorti che ascoltandolo che è un SOS. Sentitelo chiaramente. Sentite? Tre punti, tre linee, tre punti. Margherita ci manda un messaggio disperato. Aiutatemi. Non so esattamente quale sia la sua situazione, non so che tipo di dramma si trovi oggi venerdì 17, però è come disperato tentativo, probabilmente c'è un carceriere che la sta sorvegliando, ha mandato questo ticchettio, un SOS. Aiutatemi. Se qualcuno saprà darci informazioni ulteriori sulla sorte di Margherita, gli saremo molto grati. Intanto sentiamo Claudia. Claudio ha già annunciato il suo portafortuna che rovinerà molte famiglie. Lei cosa si porta come portafortuna? No, io ho un pezzo di una mutandina che non è mia, di Pizzo. E di chi è? Che era di mia sorella. E perché, ha strappato le e perché ha strappato le mutande a sua sorella? No, mia sorella era una signora, perché ne devo parlare purtroppo al passato, molto superstiziosa. E che per lei il 17 era veramente una tragedia. Qualsiasi momento succedesse qualcosa il giorno che era 17, poi il venerdì ancora di più. E la cosa terribile è stata che lei è mancata nella notte tra il 17 e il 18 di agosto. Ce l'aveva quasi fatta. Il giorno che sono nato io magari, che anno? No, recentissima, era un 2000. Quindi Qui da poco. Quindi la notte tra il 17 è mancata. E qual è il nesso con le mutande e la dipartita di sua sorella? Perché era un paio di mutandine a cui lei era particolarmente affezionata, che non aveva mai utilizzato. Ah, quindi sono nuove, mutande nuove? Sì, ma io ne ho tagliato solo un pezzo, me lo sono fatto cucire su un pezzo di stoffa e lo porto sempre con me. E quale pezzo ha scelto di tutto, diciamo, l'apparato? No, un pezzettino davanti. Ma erano tutte di Pizzo, eh? Di che colore? Nere. Ma lei l'aveva comprato, e me lo ricordo ancora, perché era un momento importante, cioè si era lasciata col marito e si era comprata questo mutandino. Certo, devo dire che ci consola sull'imperdurabile, eterna tenuta dell'amore coniugale. Pensare, una si lascia col marito, compra delle mutande di Pizzo nero, è tutta una sorta di promessa, perché lo sarà il suo futuro. Comunque era una donna ottimista, sua sorella ottimista, ma non pagata dalla sorte in virtù del suo ottimismo, perché la comprate di Pizzo nero, se l'è tenuta nel cassetto però pare per tutta la vita. Però sua sorella, devo dire che al momento della sua dipartita, quando abbiamo toccato le sue cose, ho trovato un sacco di biancheria sexy. Che prometteva bene, ecco. Sì, ma se la tenne nel cassetto l'ha usata, noi non l'abbiamo mai saputo. Forse anche le mutande che lei, di cui si porta un pezzo addosso, l'ha usata, non lo posso sapere. Io spero per lei più che altro. Lo spero anche per lei, perché l'uso probabilmente dà ancora più valore all'oggetto scaramantico. Grazie Claudia. Nereo. Buongiorno, dottor Nicoletti. Sì. Eccomi qua. Allora, il mio portafortuna è un scarabeo egiziano che mi hanno regalato circa 2 anni fa durante una vacanza a Sharm, lì in Egitto, sui vari ambulanti, bazar che vendono i loro souvenir. Ho fatto degli acquisti e loro, uno dei titolari, mi ha detto: tieni questo, che questo ti porterà molto, molto fortuna. D'altronde l'ha detto anche che è stato preso da una piramide. Sì. Hanno raccontato, sì, cioè li vendono come qui adesso a piazza davanti alla stazione Termini, vendono i bastoncini per farsi selfie, quella produzione è la stessa. Però esatto. Sì, me li portò mio nonno, che andò in Egitto tipo 1965, mi portò questo scarabeo verde dicendo questo. Sì, è un verde turchese, certo, sì, un azzurro verde. Vedrai che sarai la persona più fortunata, certo, in questo è presso fuso in plastica, li fanno vicino. Esatto. Questo qua mi ha addirittura cascato, si è rotto a metà, proprio perfettamente rotto a metà, l'ho riattaccato ed è come nuovo. Ecco, porterà ancora più fortuna. Vabbè, l'importante è crederci, mica che in realtà il portafortuna è dotato di poteri reali, basta crederci. Salvatore. Buongiorno. Sì. Io sono un informatore medico e anni fa conobbi un medico napoletano trapezzato al nord. E se mi mettete un po' in confidenza, un giorno gli ho chiesto: dottore, ma lei è superstizioso? Fa: come no, col suo accento molto napoletano. Certo. Allora tiro fuori da un cassetto un ferro di cavallo, fa: vedi, tutte le volte... Un cavallo vero questa volta, non come quello della nostra ascoltatrice. No, un ferro di cavallo. Un ferro di cavallo. Vero ferro, grande. Un vero ferro di cavallo, bello grande. E allora dissi: dottore, ma come mai? Ah, perché quando mi raccontano i miei pazienti certe cose, io lo tocco, non si sa mai. Allora Cioè uno racconta i sintomi al medico, vede il medico, mette le mani nel cassetto esatto. E impugna il ferro. No, la cosa divertente è venuta dopo, io gli ho chiesto, dottore, ma posso toccarlo anch'io? Lui si è ritratto e fa, no, si smagnetizza. Certo, giustamente, si smagnetizza. Era personale. Ma personale, vabbè, è importante che anche lì, certo, tenete d'occhio il vostro medico quando raccontate quello che avete, perché se tocca il ferro di cavallo io cambierei come minimo medico, troverei qualcuno un po' più confidente nell'evidenza scientifica piuttosto che nella superstizione. Gianfranco, buongiorno. Ah, buongiorno, niente, io devo raccontare una storia al contrario, nel senso che qualche tempo fa una mia ex che era andata in Brasile per fare la suora laica, quando è tornata... No, scusa, no, questa è interessante. Dopo il rapporto d'amore con lei, di passione e penso anche carnalmente soddisfacente, era talmente contenta che è andata a fare la suora in Brasile. Era talmente contenta, sì, che ha sentito il richiamo della foresta. Nella vita ho visto tutto, quindi... Ecco, certo, basta, adesso mi dedico. Ma suora laica lo dice lei o è andata in Brasile a farsi un viaggetto e basta? No, suora laica con un istituto di Perugia, va bene, adesso non di Perugia, no, Perugia, la mia città. Sì, come bene. Si chiamava l'istituto? Non me lo ricordo, però... La letto io vado con... È andata, sì, è andata, addirittura, è andata... se non è la congregazione di Padre Stura, dicono così a Perugia. Poi... Penso che doveva fare 2 giorni a piedi nella foresta per arrivare in questo villaggio dove lei si prendeva cura, insomma. Dei poveri. Cose. Bene, malati. Torna e mi riporta un amuleto, un pezzo, un pezzo di stalattite preso in una grotta. Cioè era un oggetto oblungo. Di dimensione missilistica e dice un pezzo di stalattite però piccolino insomma poi quanto più o meno quanto era ma grande? Saranno stati 4 centimetri quindi poi incastonato in questa natura fatta dagli indigeni eccetera vabbè, e che io dovevo portare con me perché portava fortuna e da quel momento 2 incidenti con la macchina e l'ha fatto una macumba le coliche cioè mi è successo di tutto una storta cioè un lavoro e che dove, e dove adesso a chi l'ha rifilato la stalattite per allora tosse? Io a un certo punto non so cioè è chiaro che non è che credo che era no questo, però potersi pure che... allora se l'hai tenuto quindi se non ci credi no a un certo punto una mattina ho detto io questo tra tutte le cose che mi sono venute in mente, ho detto, ma io perché mi porto a preso chi me lo fa fare? Ma chi deve farlo? Dell'ex amante monaca con la stalattite. E quindi che ne ha fatto? L'ho buttato in un tombino. E quindi? E io non lo so, ma forse quindi adesso nelle girata. Fogne di qualche città d'Italia che non voglio sapere c'è il catalizzatore della massima certo. Sfiga che viene dal Brasile. In bocca al lupo, non dica in che città si trova perché oggi sennò tutti avranno paura di affacciarsi soltanto sull'orlo del loro gabinetto perché l'influenza e lo smagnetizzamento di quella stalattite potrà rendere ancora più funesto questo venerdì 17 a lunedì.